tempo di sport. Intanto le polemiche su Catania Juventus stanno incendiando questo pomeriggio della Serie A. Io ricordo i numeri 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Potete scriverci anche sulla nostra pagina Facebook a Tempo di Sport - Radio 24 o su Twitter @ Capuano Joe. Buon pomeriggio a Graziano Cesari. Buon pomeriggio a voi. Ciao Graziano, ciao. Immagino super lavoro oggi. Tantissimo. Perché Catania-Juve, ma non solo, sono partite destinate a far discutere. Io non ti chiedo il giudizio complessivo sul pomeriggio degli arbitri, perché unito... Ti do un titolo se vuoi. Dammi il titolo. E prendo in prestito da uno che sta facendo un viaggio itinerante per l'Italia. Arbitri, puntini, puntini, da rottamare. Da rottamare, ma anche gli assistenti direi, non solo gli arbitri, perché oggi ne abbiamo viste di tutti i colori. Sì, accomuno proprio in questo giudizio tutti, perché veramente gli ufficiali di gara oggi è stata una giornata devastante da questo punto di vista, collaborazioni assolutamente assenti, errori madornali, rete convalidate che non andavano assolutamente convalidate, rete annullate e non si sa il perché, ma tutta una sequenza di errori inimmaginabili. Io lo dico agli amici da casa, noi nel limite del possibile cercheremo di capire tutto, se ci dimentichiamo qualcosa non esiste alcuna dietrologia in favore di questa o di quella squadra. Però direi, Graziano, non possiamo non partire da Catania-Juventus 0-1, lo sfogo di Pulvirenti lo abbiamo sentito in apertura di trasmissione, e ruota quasi tutto sull'episodio del 26esimo del primo tempo, e cioè il gol annullato al Catania per un fuorigioco di Berghessio, autore della rete, che, lo diciamo subito, non c'è. Però fa discutere non soltanto la chiamata sbagliata, ma anche il fatto che sia arrivata con 40 secondi di ritardo sulla concessione della rete. Allora, come l'hai vista e spiegaci che cosa è successo? Allora, è possibile parlare di fuorigioco, perché il giocatore della Juventus, Pogba, che in quel momento controlla Berghessio, tiene sempre in gioco il giocatore del Catania, Quello è successo dopo questa rete, che inizialmente è stata convalidata dall'assistente Maggiani. È successo che c'è stata una comunicazione tra auricolare con Rizzoli, che era l'arbitro di area, l'arbitro di porta, con Maggiani. A questo punto si sono parlati, se volete sapere il labiale, si sono detti l'ha toccata oppure no Lodi in precedenza. Probabilmente Rizzoli ha dato una risposta affermativa, e allora la risposta di Maggiani allora è da annullare. A questo punto Gervasoni ha annullato la rete. Perché Lodi ha toccato effettivamente, perché in quel caso ha ragione Rizzoli a dire che Lodi ha toccato con il ginocchio il pallone all'interno dell'area di rigore, ma anche nel momento esatto di quel tocco in realtà Berghessio si trovava in posizione regolare. Parlavamo prima con Maurizio Crosetti del peso di Rizzoli giudice d'area. Era giudice d'area a Pechino nella contestata finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli, era il giudice d'area della chiamata sbagliata a Udine che ha portato all'espulsione dopo 10 minuti di Berkic. Io credo che Braschi debba fare una riflessione, ma non tanto su Rizzoli o come scrivono gli amici da casa, perché Rizzoli è amico della Juventus, è che mettere dietro le porte i migliori arbitri probabilmente finisce per condizionare la libertà di giudizio degli altri. Sono perfettamente d'accordo, probabilmente non succede così in Europa, dove gli arbitri hanno una collaborazione, tutti si lavora per un prodotto migliore. Nel campionato italiano probabilmente chi deve lavorare in quella posizione di campo si sente declassato, e così pensa di intervenire facendo il protagonista, spesso sbagliando. Dopo il gol annullato al Catania, la partita esplode, ci sono diverse ammonizioni, diventa importante soprattutto quella al 35esimo di Marchese, che poi nella ripresa sarà espulso per somma di ammonizioni, mentre mi pare che sulla seconda non ci sia assolutamente nulla da dire, perché è un fallo di mano anche abbastanza volontario, dunque cartellino giallo. Cerchiamo di capire la prima, Graziano. Che è una dinamica di corsa tra due corpi che vanno interamente sul pallone. Uno è Lichtsteiner, che procede verso la porta del Catania, e indipendente, in questo caso Marchese, va verso il centro del campo. Si scontano, ma c'è la volontà proprio di Marchese di mettere le braccia davanti, quasi ad evitare, quasi a proteggersi, quasi a rintuzzare il colpo. Quindi mi sembra molto eccessiva questo primo giallo dato al giocatore del Catania. Quindi un'ammonizione che poteva essere risparmiata. Noi dobbiamo spiegare che questa ammonizione arriva però 9 minuti dopo il gol annullato, certo, che si era portato dietro una scia di proteste, l'espulsione del presidente Pulvirenti, che è, come tradizione, presente in panchina. Probabilmente in quel momento Gervasoni stava cercando di riprendere in pugno la partita e quindi anche un contatto veniale gli serviva come lezione. Per intenderci, ci sono stati 8 ammoniti e un espulso nella partita, 6 sono stati nel primo tempo, che evidentemente è stato il più difficile da controllare dopo l'errore. Sì, assolutamente sì, dai, che è stato un primo tempo molto molto molto nervoso. Chiaramente l'episodio del gol annullato non ha fatto altro che infastidire, quindi che produrre ansia, tensione sul terreno di gioco, ma sono stati tanti anche i provvedimenti non estratti, non adottati anche da Gervasoni in quel frangente. Insomma, una situazione di gara veramente difficile per l'arbitro Mantovani e per i suoi collaboratori. Poi c'è il gol decisivo, quello che regala alla Juventus la vittoria, il gol di Vidal. Siamo al 12° del secondo tempo e anche in questo caso c'è una posizione di fuorigioco. Sì, perché c'è un assist di Vucinic in posizione perfettamente regolare, questo assist per Bentner. Bentner al di là dell'ultimo difendente, in questo caso Spolli del Catania, dopodiché sul passaggio successivo è Vidal a ribattere in rete, quindi l'azione andava interrotta nel momento in cui il passaggio tra Vucinic e Bentner. Al 24° del secondo tempo ha ammonito Vidal, ammonizione che c'è, era diffidato, squalificato, salterà Bologna, ma certamente ci sarà sabato sera nella partita contro l'Inter. L'ultimo episodio che mi sono annotato all'ultimo minuto è un contatto tra Samoa e Morimoto in area di rigore, il Catania chiede timidamente il calcio di rigore, come la vedi? No, assolutamente no, non è un contatto che prevede la massima punizione, è un contatto da 2 giocatori che cercano il pallone, è una protesta assolutamente ingiustificata. Ingiustificata. Intanto sta per parlare Stramaccioni a Bologna su Sky Sport 1, sentiamolo. È tutto bagnato perché a Bologna pioveva e pioveva parecchio oggi, ha diluviato per tutto il corso della partita. Stramaccioni l'ha seguita praticamente costantemente in piedi davanti alla sua panchina. Allora, vediamo se riusciamo a cogliere in diretta l'analisi della gara da parte dell'allenatore dell'Inter. Per l'Inter è l'ottava vittoria in trasferta dall'inizio di questa stagione, Europa League compresa. Sentiamo. La partita si sente ogni volta che scende in campo un po' padrona del proprio destino. Cioè, la sicurezza acquisita vi porta a poter gestire le partite, anche a superare i momenti difficili, perché anche oggi, soprattutto nei primi 20 minuti, avete sofferto, poi alla distanza la squadra uscita. Secondo me abbiamo sofferto gli avvii di tutti e due i tempi, dove il Bologna ha messo in campo grande, grande agonismo, grande, grande voglia, però tolti i due avvii sia del primo tempo che della ripresa, a me l'Inter è piaciuta molto, sempre quadrata, sempre compatta, abbiamo concesso veramente pochissimo su azione, penso quasi nulla, e abbiamo preso questo gol sullo sviluppo di un calcio d'angolo dove secondo me ci siamo fatti trovare un po' impreparati nel gioco a due, però siamo stati poi rimasti sempre pericolosi, anche sul 3-1 siamo andati anche vicino al quarto gol, quindi secondo me facciamo passi avanti e sono contento di questa crescita. Ha ragione Stramaccioni, perché l'Inter ha sofferto molto, soprattutto nel primo tempo, prima di trovare il gol del vantaggio. Intanto io voglio rispondere a un amico che ci ha scritto al 349-238-6666. Evidentemente sia io che Maurizio Crosetti non siamo riusciti a spiegarci bene. Nessuno ha detto che Rizzoli è un arbitro al servizio della Juventus, perché dietro gli errori pro-Juve di questa stagione c'è quasi sempre Rizzoli in posizione di giudice aria. Anzi, abbiamo detto che a nostro giudizio, ad esempio, a Pechino ha fatto bene a far assegnare il calcio di rigore del pareggio del 2-2. Stavamo ragionando sull'opportunità di mettere il miglior arbitro italiano, ed evidentemente condizionante per i colleghi, nella posizione di giudice d'area. Dunque non abbiamo nulla di cui vergognarci, non pensiamo che Rizzoli sia un arbitro pro Juventus, stiamo provando ad affrontare soltanto un discorso dal punto di vista tecnico. Ho l'impressione, Graziano, che nella settimana che ci porta a Juventus-Inter sarà molto difficile. Sarà molto molto difficile, purtroppo questo Juventus-Inter nasce sotto una cattiva stella, una settimana piena di polemiche, andremo a vedere purtroppo cosa succederà, chiaramente non ci volevano assolutissimamente, anche per non ricordare quello che è successo in passato, che non abbiamo mai dimenticato ma che vorremmo che non si ripetesse meglio. Ti chiediamo un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi Fiorentina-Lazio, altra partita delicatissima questo pomeriggio, traffico. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi a tempo di sport trattino radio 24 e la nostra pagina Facebook, o su Twitter potete scriverci chiocciola Capuano Joe. Intanto nella Premier, il Manchester United è avanti 1-0 contro il Chelsea in avvio di partita, autorete di Luis. Sentiamo ancora Stramaccioni a Bologna. Inter, però io posso avere tante idee, posso avere per pensare tante cose, ma sono sempre i calciatori e tu lo sai che le mettono in campo. Io penso che se una squadra vince, adesso non ricordo quante partite in trasferta, 6, 7, non so 8, quante 8, sono, 8. È un segnale di una 8, è un segnale secondo me di grande compattezza, perché nel calcio moderno fare 8 vittorie in trasferta vuol dire che i miei calciatori sono concentrati, sempre molto motivati, messi bene in campo, quindi il merito è loro. Questo Stramaccioni che oggi ha giocato in partenza con il 3-5-2 senza Cassano e con soltanto Milito e Palacio davanti. Graziano Cesari, Fiorentina-Lazio, arbitro Bergonzi, metà primo tempo, il 27esimo, calcio di rigore per la Fiorentina, rigore netto, non c'è dubbio. Ha fatto sorridere un po' il tentativo invece di trasformazione di Mati Fernandez. C'è qualche problema di linea con Graziano Cesari, allora proviamo a recuperare la linea. Intanto da casa ci state scrivendo sui problemi di questo pomeriggio arbitrale, come al solito dice ad esempio Carmelo da Milano, lamentarsi contro la Juventus sembra politicamente corretto, mentre contro le altre squadre non succede quasi mai, cosa che non è vera, perché ad esempio noi una settimana fa da qui vi stavamo raccontando da questi microfoni degli errori in favore dell'Inter sempre contro il Catania nella gara di San Siro. Abbiamo recuperato intanto il collegamento con Graziano Cesari. Dicevamo, Graziano, Fiorentina-Lazio, questo rigore nel primo tempo per la Fiorentina, rigore che c'è, mentre è più curioso il tentativo di realizzazione di Mati Fernandez che commette un errore marchiano. Assolutamente sì, nella fine del calcio di rigore colpisce il palo e va a riprendere il pallone, come se si fosse passato direttamente il pallone, quindi in questo caso Bravo Bergonzi che interviene, assegna un calcio di punizione indiretta a 2 a favore della Lazio. Tra l'altro Mati Fernandez anticipa lì Aic che avrebbe potuto realizzare sulla ribattuta del palo e a quel punto non può farlo. Settimo del secondo tempo, la Lazio chiede un calcio di rigore per un mani di Quadrado. Intanto ti faccio sentire però Stramaccioni sugli errori arbitrali. Addirittura qui c'è qualcosa di strano, cioè si sta o tutelando estremamente la squadra down oppure non ci credo, ecco, no, faccio prima non crederci. No, ma la settimana scorsa Andrea aveva detto che a proposito degli arbitri niente, non stanno cercando di fargli commentare gli episodi di Catania, ma evidentemente Stramaccioni si sta trincerando dietro un no comment. Dicevamo, la Lazio chiede un rigore per un mani di Quadrado che è molto simile a quello concesso proprio contro i Viola nell'Inter quando costa i Zanetti. Anche in questo caso il braccio sinistro di Quadrado si allarga pericolosamente dal corpo, devo dire che la distanza permetteva un altro tipo di atteggiamento, a me sembra calcio di rigore. E poi c'è al 14esimo un gol annullato a Mauri per fuori gioco, è una rorata dell'assistente Iannello sul cross di Lucic dalla sinistra in attacco, colpisce in posizione assolutamente regolare Mauri, c'è Quadrado proprio che lo tiene in gioco, a questo punto è un gol assolutamente da convalidare. Errore da matita blu. La Lazio chiude in 9 per l'espulsione di Ledesma e Dernanes. Devo dire che sul primo fallo di mano di Ledesma nessun problema, sul secondo su Quadrado mi sembra un fallo di gioco normale nella zona mediana del campo, quindi mi sembra eccessivo. Nulla da dire invece sul rosso a Hernanes, che interviene a tenaglia sul giocatore viola. A proposito, abbiamo dimenticato in Catania Juventus, e da casa ce lo fanno notare, una trattenuta di Legrottaglie su Chiellini pochi istanti prima del gol poi annullato al Catania. Allora andiamo a recupero prima di essere accusati di fare una trasmissione anti-Juventus. No, no, è assolutamente il 21esimo del primo tempo, in questo caso era calcio di rigore per la Juventus perché si allunga pericolosamente la maglia di Chiellini trattenuta dalle Legrottaglie, ma soprattutto cogliamo il colore del sottomaglia di Chiellini che è assolutamente nero. Assolutamente, e con questo abbiamo chiuso Catania-Juventus. Bologna-Inter, sul primo gol di Ranocchia ci viene segnalato un contatto all'interno dell'area di rigore tra Palacio e Morleo. Diciamo che c'è una punizione battuta dalla sinistra in attacco, tutti i giocatori si spostano dalla parte destra, quindi il nucleo di mischia di calciatori si sposta dalla parte destra. Alla parte sinistra rimangono solamente Morleo e Palacio, e prima che il pallone sia buttato in rete dal colpo di testa di Ranocchia c'è un fallo di Palacio che trattiene per la maglia Morleo. Quindi siccome è antecedente al colpo di testa di Ramocchia, il gioco doveva essere interrotto che concesse un calcio di punizione in favore della Bologna. Quindi in questo caso un errore di De Marco. Poi alla mezz'ora del primo tempo c'è una leggera trattenuta di Antonsson su Ranocchia, sul secondo palo, sugli molto sviluppi leggera, di un cross molto leggera. Molto leggera, direi che con quello che è successo oggi non ne vale neanche la pena di parlarne forse. E poi invece c'è un sospetto fuorigioco sulla rete di Cambiasso, gol del 3-1. È proprio il piede sinistro di Cambiasso, metà piede sinistro di Cambiasso, che è in fuorigioco sull'assist di Palacio, che Rubin sta fermo correttamente. Palacio serve Cambiasso, che si trova in fuorigioco. L'assistente di Fiore non coglie questo fuorigioco millimetrico, però la rete andava annullata. Assolutamente, in questa partita espulsi Pioli e Beppe Baresi al 17° del secondo tempo per una mezza rissa, chiamiamola così, in occasione di un cambio, ma questa testimonianza che anche a Bologna la temperatura era abbastanza elevata, malgrado la pioggia. Andiamo a Genova, dove invece Sampdoria-Cagliari 0-1, con il Cagliari già in vantaggio per 1-0, 23° del secondo tempo, c'è un gol annullato a Munari. Gol assolutamente irregolare, quindi è giusto questa decisione da parte di Rocchi, che mi sembra che oggi sia stato l'arbitro fin dei conti migliore di tutti. Sì, Rocchi che sta facendo una buona stagione. Buonissima. Dopo i disastri dell'anno scorso, deve essere anche giusto sottolineare come in questo caso Braschi e Nicchi abbiano fatto benissimo a non perderlo un anno fa e lo stanno piano piano rilanciando. Sì, assolutamente sì, devo dire che probabilmente essere preselezionato per il gruppo degli arbitri in Brasile, 52 migliori fischietti del mondo, lo ha galvanizzato e si vede sulle sue prestazioni. Prima di chiudere ti saluto, le due espulsioni, Peluso dell'Atalanta a Pescara e Sansone del Torino contro il Parma. Su Sansone non ho nulla da dire, anche se mi sembra la seconda ammonizione, quella per simulazione, un pochettino accentuata, ma però poi Sansone, uscendo, ha chiesto scusa al suo allenatore e Cairo in tribuna ha detto è una espulsione assolutamente giusta, quindi mi basta questo tipo di comportamento del giocatore di Torino per fargli capire che il campo ci deve stare correttamente. Quella di Peluso mi sembra eccessiva, però devo dire che c'era molto agonismo a Pescara, quindi probabilmente il giocatore dell'Atalanta della Nazionale ne ha sofferto. È stato un piacere, Graziano, ti manderò via SMS il nome dell'arbitro di Juventus Inter, così scommettiamo un'altra cena. Possiamo scommettere sicuramente, ma questa volta ho ragione io. Chi dici? Orsato. Ancora Orsato. Ma senza ombra di dubbio, non sbaglia mai. Va bene, grazie a Cesari, ci sentiamo fra una settimana per parlare anche di Juventus Inter. In attesa sentiamo Petkovic invece a Firenze, Sky Sport. Che abbiamo visto. Quindi gol regolare per lei? Ma sicuramente sì. E poi c'è l'episodio del rigore per un sempre Lulic che crossa e poi c'è un fallo di mano di Guardado. Qui tanto stiamo rivedendo sempre il gol annullato a Mauri, dove si è già espresso, e poi appunto c'è l'episodio relativo a quel fallo di mano di Guardado. Sì, questo non ho visto, mi dicono di sì, ma anche vorrei con criterio che aveva arbitro oggi, questo sicuramente doveva fischiare, perché non sono solo questi episodi ma anche diversi gialli che abbiamo preso, perché i primi 5 falli abbiamo preso 5 gialli e lì ha cominciato anche la squadra a diventare un po' più nervosa, ma come ho detto queste non sono le scuse, dovevamo continuare di credere, dovevamo girare la partita, ma penso, vorrei vedere anche il primo gol loro in 46° minuto di Dajic, se qualcuno è stato anche davanti al portiere. Sì, gol davvero stupendo quello di Ljajic. In questo caso c'è effettivamente una posizione di fuorigioco ed è tutto da discutere se sia attiva o passiva di un giocatore della Fiorentina. Spiace parlare soltanto di arbitri, ma oggi è stata davvero una giornata nera, soprattutto per gli assistenti. Avete sentito anche la nostra moviola, quindi non soltanto a Catania ma anche a Firenze e anche a Bologna, con errori decisivi. Mario D'Assondrio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, eccomi qua. Eccoci qui, prego. Volevo se Alessio si chiama. Sì, Angelo Alessio. Il terzo avete detto, no? Certo, è il secondo, ma diciamo che Carrera ha fatto talmente bene nelle prime 10 giornate, nelle prime 10 partite, che probabilmente in qualche modo si è guadagnato i galloni del secondo sul campo. Prego. Io sono interista, prima di tutto. Diciamo che l'analisi che ha fatta forse è discutibile su un fatto che lui ha detto. La Juventus ha tirato in porta 11 volte e il Catania 1. La differenza è che la Juventus è stata in porta 10 volte perché è l'11esima e non era regolare, e il Catania si è andato in porta una volta e invece era regolare. Così, diciamo, un pizzico di ironia, se vogliamo. Sì, ma mi sembra Mario, che ne abbiamo parlato abbondantemente in questa prima ora di trasmissione, però mi sembra anche che sia corretto riconoscere che la Juventus è una squadra che non molla mai, non molla niente, anche in pomeriggi difficili come certamente è stato questo di Catania, al di là del conto dei tiri in porta, perché fino al gol del Catania, cioè quello annullato, già la Juventus aveva in parte sofferto. È capitato del resto anche all'Inter a Bologna. L'Inter quest'anno, pur non essendo sul livello della Juventus, è forse una grande squadra, perché poi è capace di attaccarsi a un episodio e a cambiare il senso delle partite. Questa Juventus a me ricorda molto da vicino quell'Inter di Mourinho, che era molto superiore a tutti ma che non mollava mai, nemmeno nelle partite più difficili, quelle che sembravano mettersi male. Grazie a Mario da Sondrio. Ettore da Bari, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Io volevo sottolineare un po', diciamo, vedendo sia la partita della Juventus sia un po' la partita dell'Inter e un po' anche le ultime partite. Ho notato, io sono tifoso juventino, nella Juventus stanchezza nelle ultime partite, una cosa che vedendo il gioco dell'anno scorso, vedendo il gioco di quest'anno, vedo un po' una specie di involuzione nella Juventus, pressing non più alto e stanchezza, diciamo, in alcuni giocatori, oltre alla mancanza poi di una vera e propria punta che riesca a segnare. Oggi Giovinco ha sbagliato anche altri gol, diciamo. E poi un'altra cosa che volevo sottolineare, e volevo anche un po' un parere da parte sua come giornalista, io oggi ho visto un po' con la conferenza stampa di Alessio, io ho notato un vero e proprio attacco mediatico in conferenza stampa, nel senso che si è andati puntati proprio verso Alessio. Io mi aspettavo una conferenza stampa più obiettiva, non fatta da tifosi. Ecco, guarda, io purtroppo non ho visto la conferenza stampa del dopopartita, ho assistito al dopopartita di Sky, quindi purtroppo su questo io non ho nessuna possibilità di darle un parere. Sulla Juventus le dico ad esempio che se Bentner è quello visto oggi a Catania, probabilmente la Juventus un'opzione in più per il suo attacco in casa ce l'ha già, finora non è praticamente mai stato utilizzato. Oggi mi sembra che Bentner abbia fatto il suo. Ci fermiamo un minuto per pubblicità e meteo, poi torniamo e dovremo avere la voce di Milito da Bologna. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Andiamo su Sky Sport a Bologna, dove c'è Milito. Quindi peccato, perché sicuramente tutti che siamo dietro speravamo almeno che il Catania poteva fermare un po' la Juve. È andata così e dobbiamo guardare avanti. Ilaria. Perché al netto degli arbitri, una delle domande che ci accompagnerà per tutta la settimana è se davvero l'Inter possa essere l'anti-Juventus. Buon pomeriggio a Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo. Buon pomeriggio. Ciao. Matteo. Ciao, buon pomeriggio, ben trovati. E allora apriamo la nostra prima pagina. Una prima pagina che dice che l'Inter vince a Bologna anche senza Cassano, è l'ottavo successo in trasferta della stagione, a una settimana dalla sfida alla Juventus. Stramaccioni continua a cambiare, a fare risultati, la candidatura anti-Juve ora è legittima, in attesa però del Napoli che questa sera gioca contro il Chievo. Però è un campionato al veleno per gli errori arbitrali. A Catania Maggiani, Rizzoli e Gervasoni hanno sbagliato tutto. Secondo Pulvirenti non è solo sudditanza psicologica, errori anche a Firenze contro la Lazio e a Bologna pro Inter una settimana fa, gli errori di San Siro, prima ancora Valeri nel derby. Insomma, che cosa sta succedendo al mondo degli arbitri italiani? E poi il sigillo del Faraone che spinge il Milan a metà classifica, respira Allegri, ride Gagliani che ha trovato un nuovo leader per il suo spogliatoio in campionato. Pensate, El Shaarawy ha segnato 6 dei 10 gol del Milan ed è l'attaccante che pesa di più con le sue prestazioni, più anche di Cavani e Klose. Matteo Marani, l'Inter è l'anti-Juventus o no? Se posso rispondere stasera dopo le 10:30 preferirei. Cioè, aspettando il Napoli. Sì, perché credo che comunque il Napoli per il campionato rimanga per il momento ancora la candidata. Però certamente oggi pomeriggio l'Inter mi ha fatto un'impressione come era tanto tempo che una squadra italiana del nostro campionato non mi faceva, perché unisce una solidità straordinaria sia fisica che come modo di stare in campo dei giocatori e una grandissima qualità davanti. Quindi è una squadra veramente in questo momento difficile da superare, poi lo dicono anche i numeri, ottava complessiva di vittoria consecutiva, quinta in campionato, e l'eccezione è quasi il gol preso da Cherubin, perché sono il primo che l'Inter prende quest'anno fuori casa. Sì, è il primo gol fuori casa di questa stagione per l'Inter. Cioè, siamo di fronte comunque a numeri che dicono che è un'altra Inter, certamente rispetto a quella che aveva avuto difficoltà iniziali con la Roma, eccetera. Ha una marcia straordinaria, veramente impressionante questa squadra. Sì, diciamo che Stramaccioni tra l'altro sta davvero scalando in fretta un po' tutti i gradini di questa sua scuola, che è questa primavera stagione su una panchina come quella dell'Inter pesante, perché a nessuno sfuggiva la differenza tra questo avvio di campionato e le ultime 9 giornate della stagione scorsa, quando in fondo a lui si chiedeva soltanto di tenere in piedi la baracca. È stato molto bravo, è stato realista, poi lui si offende se uno dice che è provinciale, però è stato realista perché ha fatto un Inter con un'anima da lotta, da battaglia, e ha azzeccato direi quasi tutte le cose, perché la difesa 3 certamente è la risposta migliore, e tra l'altro oggi io ho visto un Inter anche matura da questo punto di vista, cioè che si sta adattando, si sta abituando a giocare a 3. Juan Jesus è una grande intuizione, perché sono questo è un ottimo difensore, col ritorno di Samuel in mezzo la difesa è più che mai solida, il portiere è buono, il centrocampo mi sembra che giri, davanti ci sono questi giocatori, adesso al di là dei gol di Milito, ma ci sono dei giocatori come Palacio, 2 assist, una delizia, sono un giocatore che è recuperato, è tantissimo, e poi a un certo punto è entrato Cassano, per dire che anche le alternative ci sono. Sì, il contropiede del 2-0 è stato davvero un bel momento di calcio per la velocità e la precisione di esecuzione. Oggi Stramaccioni ha scelto in realtà di tenere in panchina Cassano, perché il suo è stato un 3-5-2 quanto mai da provinciale, con l'inserimento di Mudingai. Ho l'impressione che Stramaccioni abbia in questo momento trovato anche le chiavi per gestirlo Cassano, perché è stato più volte inquadrato in panchina e sembrava tutto tranne che un giocatore nervoso ed arrabbiato. Ma io intanto credo che Cassano abbia sempre un bonus di qualche mese, cioè lui quando arriva nelle piazze qualche mese in più lo dà all'inizio, semmai il problema di Cassano, se ci sarà, lo andremo a verificare tra la fine di questa stagione e la prossima, qualora magari non dovesse giocare all'inizio dei problemi, per il momento non ci possono essere, onestamente, sa anche lui che non deve sbagliare, direi che poi c'è un filo con Stramaccioni che mi sembra insomma che fin dall'inizio abbia capito come gestire, come amministrarlo. E poi sai, quando tutto gira, i risultati arrivano, anche chi sta fuori ha un pochino meno ragioni di quando si perde. È una fortuna per Stramaccioni che Sneijder non recuperi per la Juventus sabato prossimo? Lo so, guarda, è un paradosso al quale pensavo anch'io guardando la partita, cioè in questo momento sembra una bestemmia, ma in effetti quest'Inter non ha bisogno di Sneijder, perché mi pare che abbia il suo perfetto equilibrio, e Sneijder è un giocatore, più che altro faccio fatica a capire la collocazione, cioè più avanti, quindi togliendo Palacio, un giocatore con caratteristiche più offensive, o invece in mezzo al centrocampo, perché sai, il centrocampo con Gargano, Mudingai e Cambiasso si aggiunge ai difensori, perché l'Inter sostanzialmente ha 5 centrocampisti forti, tutti forti fisicamente, lo stesso Zanetti, Nagatomo oggi un po' meno, però insomma 5 centrocampisti forti che si aggiungono ai 3 difensori. E se metti Sneijder, quel tipo di chiusura lì un po' cambia, poi chiaro che Sneijder è un grandissimo giocatore, quindi appunto sembra un paradosso, soprattutto anche leggendo la busta paga di Sneijder, questo è un problema che l'Inter in qualche modo dovrà porsi, perché poi Stramaccioni potrà anche fare magari la scelta di tenerlo fuori dalla centralità del progetto, ma sarà comunque una scelta che peserà poi sul valore di mercato di un giocatore che evidentemente fuori da una stagione in cui non sarà titolare inamovibile nell'Inter sarà poi difficilmente anche valorizzabile sul mercato, magari nei prossimi mesi. C'è Montella ai microfoni di Sky Sport, chiedo un minuto di pazienza, Matteo. Brillantezza anche mentale, avremmo potuto chiuderla anche prima. Ed è arrivata anche quella un po' la vittoria del salto di qualità, visto che la Fiorentina è partita molto bene, però contro le grandi, mi riferisco alla partita con l'Inter, con il Napoli, non era arrivato lo stesso risultato, e soprattutto perché è arrivata la vittoria oggi senza due giocatori obiettivamente fondamentali come Roncaglia e Pizarro. Sì, è stata una grandissima vittoria, ma noi lo dicevamo anche alla vigilia, che questa è una squadra omogenea nei suoi interpreti, anche se mancavano appunto due giocatori importantissimi. Però la squadra ha dimostrato di voler vincere, avere coraggio, avere fiducia, ripeto, contro una grandissima Lazio, dove sicuramente in quanto a esperienza anche del calcio italiano è avanti a noi, e quindi la vittoria vale ancora di più. Studio. Queste sono le parole di Montella. È difficile, Matteo Marani, non parlare di arbitri oggi, però proprio parlando di Fiorentina-Lazio, volevo capire che impressione ti ha fatto la Lazio, che ha abbandonato ufficialmente il terzo posto in classifica perdendo a Firenze, e che impressione ti ha fatto la Fiorentina? Ma guarda, io sulla Fiorentina avevo già una convinzione forte, cioè che fosse una squadra molto molto buona e che aveva, ha bisogno e avrà anche bisogno da qui in avanti comunque di concretizzare il tanto che fa. Si citavano anche i precedenti con le grandi, ascoltavo l'intervista da Montella, però faccio notare che con la Juve probabilmente meritava di vincere i punti la squadra. Contro il Napoli dominò nel primo tempo al San Paolo. È una squadra bella, bellissima la Fiorentina, perché ha grande qualità al centrocampo, forse in assoluto il centrocampo più qualitativo di tutta la Serie A, con quello della Lazio, credo. È una squadra molto molto bella. Se comincia a fare il salto, incomincia a essere concreta e vincere contro squadre come la Lazio, che era un avversario molto difficile, io credo che la squadra di Montella possa arrivare veramente molto molto avanti. Molto avanti vuol dire magari giocarsela per questo terzo posto, che vorrebbe dire tantissimo anche per Firenze, insomma, per questa nuova ripartenza, che è una ripartenza del, sì, per questo progetto e soprattutto per questo entusiasmo che i Della Valle sembrano essere tornati a mettere nel progetto Fiorentina dopo qualche anno passato un po' in seconda fila. Ma se mi posso spingere anche riguardando al mercato della Fiorentina, ma è quello che ha colpito, è che la Fiorentina ha fatto un mercato di livello internazionale, cioè di respiro europeo, ha preso giocatori come Borja Valero, Lo stesso Mati Fernandez, oggi non è stato certamente il migliore. No, però già la scelta di andare su un giocatore del genere, che come dire rompe un po' lo schema autarchico un po' delle nostre squadre in queste ultime stagioni. Lì evidentemente l'asse Pradé-Massià ha funzionato molto bene, è mancata la punta. Ecco, se la Fiorentina avesse preso Berbatov o un equivalente di Berbatov, probabilmente sarebbe stata una squadra che fin da oggi aveva ancora di più possibilità di arrivare terze, magari sorprendere, sfruttare la caduta di qualcuna di quelle altre. Cioè, sulla carta io continuo a vedere Juve, Inter e Napoli più forti di tutte, però magari lungo il corso una delle tre può anche saltare. Sì, beh, si può anche perdere. Grazie Matteo Marani. Grazie a voi, buona serata. Grazie Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo. Sta ancora parlando Montella ai microfoni di Sky Sport 1. Vado invece da Salvatore da Catania, che ci ha chiamato all'800 24 0024. Buonasera Salvatore. Buonasera. Prego. Ma volevo dire solo una parola sulla partita Catania-Juventus, ovviamente. Certo. Ma io credo che certamente ci aspetta una settimana di veleni, una settimana piuttosto brutta in preparazione alla grande sfida del weekend, no? Io credo che la dirigenza della Juventus, che l'entourage di Agnelli, ma Agnelli in prima persona, debba fare un beau geste, riconoscere l'errore arbitrale, che non significa parlare di malafede o altro, ma semplicemente un errore che può succedere, che ci può stare, ma prendere una posizione molto forte in questo senso. Del resto la Juventus, tutto sommato, ha meritato di vincere, ha fatto una grande partita, 11 tiri in porta, insomma non si può discutere il valore della Juventus, però gli arbitri devono essere come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto. Un beau geste da parte della dirigenza della Juventus, secondo me, metterebbe le cose a posto. Questo è qualcosa che alla Juventus manca e secondo me questo è il momento giusto per prendere una posizione del genere. Non so se condividete questa idea, però nel calcio questo manca troppo. Salvatore, sottoscrivo le sue parole dalla prima all'ultima e aggiungo che sarebbe ancora più bello e importante, due giorni dopo il discorso di Andrea Agnelli all'assemblea degli azionisti, che è stato un discorso di altissimo livello, non si è limitato a fare il presidente del club che parla ai suoi azionisti, ha fatto un vero e proprio programma di governo per il calcio italiano per il prossimo quadriennio. Non sfugge ovviamente che siamo alla vigilia delle elezioni per il rinnovo dei vertici della Federcalcio. Non ha voluto fare il nome del suo candidato, difficilmente sarà Abete, ma certamente la Juventus, dopo tanti anni in seconda fila, dopo tanti anni di difficoltà anche post Calciopoli, ha voluto tornare ad occupare uno spazio centrale nel calcio italiano, e questo al di là delle divisioni in tifoserie tra partigiani, juventini e anti-juventini, è un bene, perché quando c'è una una società forte, una società che in questo momento sta bene, che è all'avanguardia, che è l'unica ad aver già fatto alcuni discorsi in Italia, come è la Juventus. Ebbene, quando questa società si mette al centro cercando di trainare tutto il movimento, questa è una buona notizia. A maggior ragione sarebbe bello e aiuterebbe a svelenire il clima se oggi lo stesso Andrea Agnelli facesse quel gesto. Abbiamo una settimana davanti, speriamo che arrivi. Roberto da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Chiedo un minuto di pazienza per il traffico, poi riparto da lei. Intanto Chelsea Manchester United sta regalando spettacolo, 2-1 per il Manchester dopo l'autorete di Luiz, il raddoppio di Van Persie e poi il gol per il Chelsea di Mata. Roberto da Milano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio di nuovo, è completo per la trasmissione. Grazie, dica. Io parlavo sull'argomento di Allegri. Sì. Ecco, secondo me non è che sta andando proprio bene il Milan, perché è vero, come dicono tanti, che non è più una difesa 3 ma una difesa 5. E quindi non c'è questo, diciamo, spettacolo come vuole anche il presidente, no? E quindi non la vedo male la faccenda, ecco, anche perché siamo messi male proprio in fondo alla classifica adesso. Sì, in realtà siete a metà classifica, sì, mi permetta Roberto, perché sì, poi oggi il gioco dei risultati è bastato vincere ieri sera pur soffrendo contro il Genoa e in qualche modo già le prospettive di classifica del Milan sono cambiate, ma penso anche che in questo momento il problema non sia neanche per Allegri dover garantire un livello di spettacolo accettabile, ci sia la necessità assoluta di fare punti, di allontanarsi da quella zona calda, di recuperare un po' di serenità e poi vedere che cosa può uscire da questa, che sarà comunque assolutamente una stagione di transizione. Grazie a Roberto. Intanto c'è Donadone ai microfoni di Sky Sport. Che la palla stia andando verso un difensore quando la palla sta andando verso la porta, oppure sta andando verso l'esterno, verso fuori il campo. E il fallo c'è sempre, ma lì scatta il rosso in un caso e il giallo in un altro. Quindi ci sono le regole, sono chiare, bisogna solo farle rispettare e basta. Poi dopo questo, non mi riferivo a questo episodio perché io non sono abituato a stare a discutere o a valutare. Io credo che la partita sia stata una partita molto equilibrata fino a quel punto, con un'occasione importante noi, una buona occasione anche per il Torino. Poi dopo siamo stati bravi a gestire il vantaggio numerico senza farci prendere dalla frenesia, dalla voglia di voler fare e ottenere subito, ma a sfruttare il momento giusto, e abbiamo colpito e direi che poi abbiamo meritato di vincere la gara. Questa è la lettura di Donadoni, non se ne esce. Oggi è davvero impossibile non parlare di arbitri, perché anche a Torino la gara è stata comunque condizionata dall'espulsione di Sansone del Torino, che ha lasciato il Granata in 10. Poi il Parma è stato bravo e capace di sfruttare tutte le occasioni offerte dalla gara. Alla fine ha vinto 3-1, una vittoria importante che la fa risalire in classifica. Intanto ci scrivono da casa al 349-238-6666, purtroppo anche voi anti-juventini, non siamo anti-juventini, stiamo cercando di raccontare questa giornata e come state sentendo anche dalle voci che arrivano dagli stadi, è difficile se non impossibile raccontare questa giornata senza parlare anche degli errori di arbitri ed assistenti che ci sono stati e sono stati condizionanti a Catania, ma ci sono stati anche altrove come Firenze e Bologna, e ci sono stati anche ieri sera in realtà a San Siro in Milan-Genoa. Riapriamo però la nostra prima pagina. Una prima pagina che dice che l'Inter ha vinto a Bologna anche senza Cassano, è l'ottavo successo in trasferta della stagione ed è un successo che arriva una settimana dalla sfida con la Juventus. Stramaccioni continua a cambiare ma a fare risultati, la candidatura ad anti-Juventus ora è legittima anche se bisogna aspettare il Napoli che gioca questa sera contro il Chievo. E poi il campionato al veleno per gli errori arbitrali a Catania, ma Gianni Rizzoli e Gervasoni hanno sbagliato tutto e Pulvirenti denuncia non è solo sudditanza psicologica. A Firenze penalizzata la Lazio, a Bologna penalizzato il Bologna, una settimana fa gli errori di San Siro, prima ancora Valeri nel derby. Insomma, ci stiamo chiedendo che cosa succede agli arbitri italiani. E poi parlando del Milan, il sigillo del faraone che spinge i rossoneri a metà classifica consente ad Allegri di respirare e fa sorridere Galliani. El Shaarawy ha segnato in campionato 6 dei 10 gol realizzati dal Milan ed è, pensate, l'attaccante che pesa di più con le sue prestazioni, più anche di Cavani e Klose. Intanto sta parlando ancora Donadoni, Sky Sport. In verità il contratto non l'ho ancora firmato, anche se c'è l'accordo. L'avete ufficializzato, attenzione, con tanto di conferenza. Conferenza però, stampa senza però, contratto. No, questo è un dettaglio, ma è una sciocchezza. Ma la squadra ha sempre cercato di giocare, di fare calcio con i propri limiti. Sappiamo che dobbiamo ancora lavorare molto. È vero che due partite sono importanti, vinte, e sei punti fanno fare un bel salto. Era soprattutto importante perché questa settimana abbiamo giocato a Torino, poi giochiamo in casa, poi giochiamo la terza di nuovo fuori casa, quindi anche dal punto di vista psicologico vuol dire affrontare la prossima in una condizione migliore, sapendo che è un avversario molto complicato e quindi dovremmo stare attenti. Pensate che il Parma di Donadoni con i 6 punti nelle ultime due partite è salito a quota 12 ed è addirittura settimo in classifica. Il gol di Shaarawy ieri ci ha risparmiato almeno la domanda a Donadoni sul suo futuro possibile sulla panchina del Milan. E a proposito di Milan, all'800 24 00 24, Mario da Verona, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio signor Capuano. Prego. Senta, io sono un ex tifoso del Milan, adesso semplicemente simpatizzante. Ex tifoso del Milan, ma ha smesso quest'anno per il livello delle prestazioni o aveva abbandonato prima? Diciamo che sono 7-8 anni che insomma credo poco al calcio, però insomma al di là di questa mia considerazione volevo parlare appunto del Milan, perché io l'ho visto certo. In TV dopo diverso tempo, nella partita di Champions. E francamente è stato disarmante vedere la pochezza della difesa e soprattutto vedere un sacco di palloni persi anche sulle rimesse laterali. Ecco, mi sembra che sia proprio un segno che ci sia poca organizzazione. Inoltre mi chiedo come possa oggettivamente coesistere il Pazzini con questo gioco del Milan, che francamente insomma o giocano per Pazzini o giocano per il nuovo ragazzo, il Shaarawy, che mi sembra veramente... insomma, che abbia delle buone doti. Sì, su El Shaarawy direi che bastano i numeri a spiegare qual è il suo impatto sul Milan, del resto ne stiamo parlando. Quanto a Pazzini, ho l'impressione che semplicemente questo non fosse nei progetti di Allegri il gioco del Milan, e a questa sorta di difesa a tre con davanti una specie di tridente ma con poco gioco sulle fasce, poi Allegri si è arrivato per disperazione e per tentativi, ne ha fatti 5 in 12 partite a livello di modulo, e quindi a quel punto anche le scelte di mercato sono difficili da giustificare. Però Pazzini io credo possa venire utile al Milan, perché è comunque un giocatore che trova la porta, i suoi gol nell'arco di una stagione li fa, e in questo campionato credo che al Milan servano anche dei gol magari sporchi ma che aiutino Allegri a portare a casa dei punti importanti per cercare di restare in una zona dignitosa della classifica. Grazie a Mario da Verona. Sentiamo invece Ferrara, che sta parlando della sua Samp, che sta attraversando un momento davvero negativo. Oggi ha perso ancora in casa contro il Cagliari. Partono però gli highlights della partita su Sky Sport, e allora andiamo in provincia d'Ancona da Marco. Buon pomeriggio. Sì, buonasera. Mi prego, sente? Prego. Sì. Salve, intanto complimenti per la trasmissione, sono un tifoso del Torino e volevo chiedere cosa ne pensa della squadra granata e se ha bisogno di correttivi per lottare, perlomeno per rimanere in Serie A, visto che siamo mai abituati a fare questa altalena. E poi l'ultima precisazione, volevo solo dire che forse è anche interesse della Juve fare sì che questo campionato possa avere un po' più di credibilità, e quindi mi associo al radioascoltatore di prima di Catania, che effettivamente ha sottolineato questo aspetto, che la Juve dovrebbe fare un buon gesto e quindi in qualche modo migliorare la credibilità di questo campionato. Grazie Marco. Quanto al Torino, io credo che quest'anno sia sufficiente per il Torino arrivare a una salvezza, possibilmente in fretta, in modo da non soffrire, in modo soprattutto da non dover tornare poi in Serie B, perché il Torino lo ha imparato sulla sua pelle, da lì diventa poi difficile risalire, al di là degli investimenti, delle scelte e della volontà di un presidente come Urbano Cairo, che ha grande entusiasmo, ha anche delle disponibilità economiche, però la Serie B è davvero una brutta bestia. Sulla Juventus, a costo di attirarmi qualche nemico, io però vorrei anche sottolineare che quello visto oggi è forse il primo episodio dall'inizio della stagione in cui la Juventus viene chiaramente chiaramente favorita da una decisione arbitrale, e quindi io starei attento a parlare di campionato poco credibile o condizionato, perché la Juventus è in testa e oggi a Catania è successo quello di cui vi abbiamo parlato, che tra l'altro potete trovare nella moviola di Graziano Cesari, anche pubblicato sulla nostra pagina Facebook a tempo di sport Radio 24. È più preoccupante semmai il livello qualitativo dei nostri arbitri, che con il passare delle domeniche sta scendendo. Continuiamo a parlarne però dopo la pausa per il GR. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Scriveteci anche sulla pagina Facebook a tempo di sport trattino Radio 24, dove, lo ripeto, è pubblicata la moviola di Graziano Cesari in diretta alle 17.05, oppure su Twitter @CapuanoGio. Ci sentiamo tra pochi minuti. 800 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Provate a indovinare di che cosa si parla nei messaggi che ci state postando anche sulla pagina Facebook a tempo di sport trattino Radio 24. Si parla purtroppo di arbitri. Invece noi vogliamo parlare di questo campionato con un ospite graditissimo. Buonasera Serse Cosmi. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Serse, non so se questo pomeriggio hai visto le partite, cosa ne pensi? Sì, ho visto quella della mattina, quella del pomeriggio, ma è chiaro che sono domeniche bestiali, nel senso che poi capitano magari degli episodi importanti in partite dove ci sono squadre ovviamente sicuramente più importanti di altre, e inevitabilmente si va a finire che si parla della giornata sportiva, però si parla molto di più di quelli che possono essere stati gli errori arbitrali e di quanto possono aver contribuito a modificare i risultati. Sono domeniche che nascono un po' così, cioè nascono male, perché in realtà questa era nata male anche già ieri sera con Milan-Genoa. Oggi ho visto molti tuoi colleghi davvero in difficoltà nel cercare di analizzare le partite, ma anche colleghi che solitamente si buttano poco nella mischia quando c'è da polemizzare, come Roberto Donadoni, un po' in difficoltà, perché era davvero difficile scindere il giudizio su quello che si è visto in campo dal giudizio su alcune chiamate degli arbitri e dei loro assistenti. Volevo capire invece il tuo Siena, come giudichi lo 0-0 di ieri sera con il Palermo? Ma il giorno dopo diciamo la sensazione è quella di dover un pochino chiedere scusa, perché è normale che chi viene allo stadio vuol vedere giocare bene, vuol vedere delle belle partite emozionanti, possibilmente vincenti a secondo insomma di chi sia tifoso, insomma, quindi sicuramente non è stata una bruttissima partita, insomma. Noi molto probabilmente, anzi sicuramente, eravamo troppo nervosi, troppo spaventati dalla paura di perdere una partita e quindi di mettere la quarta sconfitta consecutiva, e questo ha condizionato enormemente quello che è un pochino una manovra normale. Il Palermo soprattutto nel secondo tempo ci ha creato delle difficoltà, e quindi per il risultato lo accolgo con favore, perché poi alla fine è il massimo che potevamo ottenere. Però sicuramente la prestazione con calma non è stata, rivedendola, non è stata all'altezza, e mi auguro insomma che sia una prestazione, ecco, che venga subito cancellata dalla prossima partita. Perché il risultato non è importante tutto. Io credo che questa mattina in realtà si sia svegliato sereno anche ad esempio Max Allegri, poi rivedendo la partita con il Genoa probabilmente si sarà accorto, e magari anche leggendo i giornali, che non è stata la miglior partita dei suoi 2 anni e mezzo al Milan, però sintetizzando, chi se ne frega, se arrivano i 3 punti a te un punticino faceva comodo, e alla fine io credo anche i tifosi magari dopo averci dormito su se ne saranno fatti una ragione dello spettacolo. Chiaro, sempre meglio ripartire da un risultato, perché sai, se poi alla fine, come ci è successo nell'ultima partita con l'Atalanta, la penultima, in quella con la Juventus, avresti meritato di sicuro un altro risultato e non è venuto, insomma lì ci si lamentava soprattutto di quello, non delle prestazioni. Noi come tutte le squadre abbiamo bisogno di punti, quindi ripeto, a volte anche da queste partite non belle, anzi proprio brutte, però si riparte muovendo la classifica, come si dice, in maniera abbastanza banale, che poi comunque la verità tra qualche tempo questo punto sarà catalogato come un punto di una classifica e ci si dimenticherà sicuramente della prestazione, però un allenatore deve oggettivamente far riferimento alla prestazione per quello che è il futuro, e quindi da un lato sono non molto preoccupato, però sinceramente avrei preferito sotto l'aspetto anche estetico qualcosa di diverso rispetto a quello che c'è stato. Stavo dando un'occhiata alla classifica, la seconda metà della classifica, vedo un grandissimo equilibrio, perché tra i 10 punti di Milan e Sampdoria e i 7 di Bologna, Palermo e Chievo ci sono praticamente 10 squadre, cioè praticamente metà campionato. Il Siena è un po' staccato a quota 3, però pesano i 6 punti di penalizzazione. Ho l'impressione che quest'anno però, a differenza di quanto accaduto l'anno scorso, la corsa per salvarsi sarà davvero una corsa che resterà in piedi fino agli ultimi minuti. Sì, beh, egoisticamente per noi è meglio tante squadre lì, perché sai, quando magari ce n'hai due più vicine, però poi la quart'ultima è tanto lontana e le altre ancora di più, poi il riferimento diventa una sulla squadra, mentre invece per noi è necessario innanzitutto fare i punti per quello che ci riguarda, perché sennò diventano solo dei discorsi fine a se stessi. Però nello stesso tempo poi, se riesci a fare i risultati, inevitabilmente tante squadre insieme contemporaneamente non le possono fare, e quindi basterebbero veramente 3 o 4 risultati utili per poter ritornare, diciamo così, nel gruppo delle squadre di bassa classifica, che è il nostro massimo obiettivo in questo momento, cioè arrivare a Natale o alla fine del girone d'andata vicinissimo a, o insieme a 3 o 4 squadre in piena poi linea dopo, di galleggiamento. E poi dopo è chiaro, bisogna fare la differenza da gennaio in poi, quella bisogna farla già sul mercato, credo. Intanto 2-2 del Chelsea contro il Manchester United, Ramirez, partita che era 2-0 per il Manchester, sicuramente a livello di emozione e di spettacolo non sta tradendo. Chiede Sebastiano, che ha scritto al 349-238-6666, chi può essere davvero l'anti-Juventus? Poi chiede se per caso può diventarlo la Roma. Ma guarda, io credo per organico, per quelle che un pochino erano la solidità espressa in questi ultimi anni, credo che il Napoli abbia in assoluto il titolo maggiore per poter pretendere ad essere in questo momento, bisogna dire, l'anti-Juventus, perché in effetti la Juventus gioca benissimo e vince con facilità, gioca bene e vince, gioca benino e vince, gioca male poche volte o non bene, vince lo stesso, quindi voglio dire, credo che sia veramente frustrante per gli avversari, almeno in questo momento. Però sono 48 partite, quindi il momento è anche abbastanza lungo, quindi il Napoli la mette ancora in vantaggio, anche se purtroppo per il Napoli, ma per Napoli ogni sconfitta diventa un dramma troppo grosso rispetto a quelle che è una piazza difficile da gestire. Non da gestire, il calcio viene vissuto con un'enfasi, con una partecipazione talmente forte che le sconfitte diventano più brutte di quelle che in realtà devono essere, insomma. Quella con la Juve è sembrata veramente una tragedia, qualcosa che segnava, non dico irrimediabilmente, però troppo rispetto a quello che è stata una partita equilibrata fino a 20 minuti alla fine, risolta comunque a favore della Juve da 2 giocate. Quindi io non l'ho vista così drammatica, cioè in senso negativo, però purtroppo, ecco, la reazione che c'è stata, diciamo, nell'ambiente di Napoli mi fa pensare che il Napoli deve, per vincere uno scudetto, veramente deve giostrare su troppi fronti, soprattutto su quello emotivo, insomma, che è troppo più difficile. Sì, se addirittura si parla di possibile contestazione. E intanto, Serse, ho l'impressione che anche a Torino ci sia in atto una protesta ufficiale contro l'arbitraggio, perché a parlare ai microfoni di Sky Sport si è presentato il direttore generale Antonio Comi. Proviamo a sentire se riusciamo a prenderne qualche secondo in diretta. Giustamente fanno valere le proprie ragioni, ma che non si rendono conto che questo è Massimo Mauro, pietra tombale sulla cultura sportiva di un paese, di un sistema calcio come quello nostro, perché è chiaro che questo qua legittima qualsiasi cosa. E la prossima partita, se ci sarà un favore arbitrale, per così dire, un errore arbitrale a favore del Toro, Comi avrà fatto bene a dire le cose che ha detto stasera, così come ha fatto. Quindi possiamo immaginare che Comi sia andato ai microfoni di Sky Sport, Serse, per lamentarsi della direzione di gara. Davvero una domenica bestiale. Io credo che l'aggettivo giusto l'hai trovato tu all'inizio della nostra chiacchierata. Beh, io non sto seguendo seguendo in diretta questo tipo di situazione, però insomma sento le parole di Mauro, però mi sorprendono, insomma, loro vivono sulle lamentele della gente del calcio. Ah, tu dici che anche noi ci viviamo, voglio dire. Gli unici a non doversi lamentare sono proprio questi. Io per primo sarei contento che non si lamentasse nessuno, voglio dire. Ma poi c'è lamento e lamento. Secondo me stare sempre zitti e non parlare degli arbitri in maniera corretta e onesta credo che sia un'ipocrisia. Sì, ma è meglio arrabbiarsi quando c'è l'episodio contro in maniera franca. È chiaro che star seduti su una poltrona e vincere sempre, perché poi chi sta lì e commenta vince sempre. Certo. A differenza di chi invece vince, perde o pareggia, mettendoci la faccia, mettendoci altre cose, insomma, voglio dire. Credo che sia una situazione psicologica completamente diversa, quindi anche l'emozione del momento e quindi di conseguenza anche certe espressioni sono vissute in maniera completamente diversa, e queste andrebbero secondo me capite di più, premesso che qualcuno poi molto probabilmente non ha neanche la capacità di capire gli altri, quindi è un limite per chi sta lì. Detto questo, non è assolutamente vero che chi protesta crea dei precedenti, crea... rovina la cultura sportiva. Perché allora, cioè voi ditemi, io ripeto, oggi se il Catania protesta oppure lo fa in maniera, adesso ripeto, non lo so, non voglio giudicare come lo fa il Torino. Noi abbiamo fatto prima la moviola, in realtà diciamo ci era anche sfuggita come peso la partita rispetto ad altre che ne abbiamo viste questo pomeriggio, però ripeto ne scopriamo ad ogni angolo che svoltiamo. Serse, ti chiedo ancora un minuto di pazienza, noi abbiamo le informazioni sul traffico, però volevo chiudere il discorso traffico. È passato anche tare, Serse Cosmi ai microfoni di Sky mentre eravamo in pubblicità per parlare degli arbitri. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i messaggi SMS. Serse Cosmi, l'importante secondo me è che però non si dica che oltre a un pizzico di sudditanza psicologica, che certamente c'è ed è impossibile da negare, c'è dietro qualcos'altro, magari si sta tornando al passato, come oggi ha fatto velatamente capire, era molto arrabbiato ed era anche da capire, insomma, il presidente del Catania Pulvirenti. No, io sì, su questo ovviamente se si pensa che veramente ci sia qualcosa di diverso rispetto a quello che è un errore, vabbè, allora non vale la pena né parlare né andare in campo né discutere, purtroppo è successo, non è che la gente poi impazzisce, lo pensa perché è una cosa astratta, siccome è successo e lo sappiamo tutti che è successo, abbiamo la certezza che è successo, voglio dire, quindi sicuramente di fronte a certe situazioni magari c'è il timore, c'è la paura che questo possa di nuovo accadere, però questa è una cosa che non bisogna pensarla e soprattutto non bisogna dirla se non si hanno poi la certezza. Ma secondo te il calcio italiano oggi ha gli anticorpi perché non accada più? No, il calcio non ci avrà mai gli anticorpi, perché nel calcio c'è il 60% di persone che lo fa per lavoro e per passione, e c'è il 40% che lo fa solo esclusivamente per business. E quindi quel 40% è un numero più che sufficiente per poter, basterebbe anche un 20 per poterlo inquinare, quindi nella maniera più assoluta non ci saranno mai anticorpi, ci saranno spero sempre delle persone che faranno in maniera tale che sia limitato il problema, a volte ci si riesce a limitarlo in maniera quasi completa, in altri casi si deborda e non ci si riesce più. Però voglio dire, questo è un conto, cioè pensare ai complotti, a delle cose credo che sia assurdo e sia sbagliato. Mettere in evidenza oggettivamente degli errori credo che non sia un problema enorme. Cioè, voglio dire, se una squadra subisce ripetutamente degli errori arbitrali, oppure anche occasionalmente e se ne parla, ma errori arbitrali sia a favore che contro, voglio dire, perché a volte ci sono degli errori, parlarne in maniera onesta, seria, senza ingannare nessuno, perché la gente non può ingannarla, voglio dire, e credo che sia una maniera positiva per poter discutere, se si fanno certe trasmissioni, se no si fanno le trasmissioni, si dice non si parla di quelli che sono gli errori arbitrali, io sarei più contento di tutti e parliamo di quello, insomma, di altro. Sì, resta un po' di ipocrisia altrimenti a condannare chi va davanti voi che andate magari davanti alle telecamere 5 minuti dopo una partita magari come quella di oggi a Catania e ovviamente sfogate anche una tensione, una rabbia, una delusione, e trovate qualcuno che vi stuzzica e poi vi giudica male perché poi magari sotto pressione dite quello che pensate. Ma sì, sì, è proprio così, insomma, voglio dire, ci si può parlare, cioè è chiaro che, ripeto, ci sono delle situazioni talmente oggettive che basterebbe discuterne. Io credo, se a me è capitato con la Lazio per esempio, ho detto subito che c'era un'espulsione legittima del nostro portiere, come dopo c'era un episodio dubbio a nostro favore. Poi non è un problema parlarne, anche perché poi la gente lo sa, lo vede. L'importante è che vengano fatte vedere, per esempio, tutte le cose in maniera equa, perché a volte si fanno vedere solo alcune situazioni. Sì, non ci sia timidezza nel mostrare le immagini, gli episodi. Poi gli arbitri se ne parla e anche loro crescono attraverso certe situazioni, voglio dire. Se uno ne parla comunque a priori per poter ottenere qualcosa di diverso, credo che sia in errore. Anzi, io credo che quando si solleva tanto polverone poi alla fine sia anche controproducente per il futuro. Non c'è dubbio. Qualche amico da casa sollevava nella prima ora di trasmissione l'invito ad Agnelli nella settimana che ci porta Juventus-Inter a fare un gesto distensivo e ad ammettere che oggi a Catania è capitato qualcosa di non totalmente corretto. Ti aspetti che la Juventus lo faccia o non è nello stile? Io non credo che la Juve debba necessariamente fare qualcosa, anche perché tanto se lo fa o non lo fa non cambia niente, la gente ha visto lo stesso. Non è che la gente è stupida che non riesce a vedere un errore arbitrale, è che spesso di fronte a un errore, anche oggi ho sentito dire per esempio che sul gol della Juve, beh, questo è un pochino più difficile, cioè era fuori gioco anche il gol. Sì, la posizione di Bentner. Ecco, basta dire è fuori gioco anche questo, la posizione di Bentner, ma non è che, voglio dire, è vergogna dirlo. Poi la Juve ha stradominato comunque la partita, ha creato tantissimo e non è neanche giusto dire che forse avrebbe vinto lo stesso, perché le partite vivono sugli episodi e ovviamente Catania è inferiore alla Juve, come lo sono il 95% delle squadre del nostro campionato. Come lo è anche il Siena, ma tu qualche settimana fa hai avuto da lamentarti giustamente per quell'espulsione di Chiellini, che in ogni caso ha almeno in parte cambiato l'andamento di quella partita, anche senza necessariamente averla condizionata o indirizzata, e ovviamente non stiamo parlando di volontà da parte del direttore di gara di Siena-Juventus. L'ho considerato un errore, però un errore lo considero e lo considererò, cioè non è che cambiano le cose, voglio dire, per cui basta, nel momento in cui uno ha parlato, poi io ho esagerato perché ho avuto un comportamento in panchina, sono uscito fuori dall'area tecnica, quindi ho subito un'espulsione, per quell'espulsione ho pagato una partita e mezzo, voglio dire, perché ho tutto il secondo tempo e quella successiva, e quindi ho sbagliato anch'io, come ha sbagliato l'arbitro, voglio dire, si fanno e bisogna saperli. Io ho detto che tante volte mi è capitato di chiedere scusa nel calcio, però ancora devo sentire un arbitro che mi deve chiedere scusa, voglio dire, prima o poi arriverà anche quello. Ma non credo, no. Non credo, perché ormai sono passati gli anni che sta in campo. Insomma. A me sarebbe sufficiente domani non sentire Braschi e Nicchi dire che in fondo anche questa domenica è andata abbastanza bene. È già capitato ad esempio dopo l'arbitraggio di Valeri nel derby, e io credo che sarebbe più sano fare in realtà, almeno dai vertici dell'AIA, un'ammissione delle cose che non vanno, però abbiamo ancora qualche ora, sì, domattina vedremo. Vedi, questo fa parte un pochino, cioè anche per esempio noi allenatori, no, a volte capita che la squadra fa delle prestazioni negative e se uno ne parla in maniera forte si dice, insomma, che fa del male alla propria squadra, perché è bene parlarne nelle mura proprie, dentro lo spogliatoio. Io invece non la penso così. Io, se la mia squadra gioca male, qualche giocatore gioca particolarmente male, lo dico, ma lo dico perché se non lo dicessi il contrario sarei preso per stupido, quindi a volte è una forma di cameratismo qua, e poi magari tra di loro poi giustamente di fronte ad errori importanti ne parleranno e prenderanno le giuste una qualche analisi ci sarà. Sicuro, insomma. Grazie Serse Cosmi. Grazie a voi. È stato davvero un piacere. Grazie a Serse Cosmi. Io devo chiedere un minuto di pazienza ad Alfredo da Formia e Castrise da Napoli che ci hanno chiamato all'800 24 00 24. Ci fermiamo, pubblicità, poi torniamo e ripartiamo da loro. Alfredo da Formia, buonasera. Sì, buonasera. Grazie per averci atteso, ma come ha sentito la chiacchierata mi sembrava molto interessante con Serse Cosmi, tra l'altro con voglia di confrontarsi anche su temi scottanti come la sudditanza psicologica, come il coraggio di affrontare gli errori degli arbitri, di parlarne senza vergogna, senza per questo sentirsi come qualcuno che rovina la cultura sportiva di questo paese. Alfredo. Sì. Io sono sul tema, intanto perché dico gli arbitri sono uomini e bisogna sapere accettare anche gli errori. Non sono juventino, io sono interista, quindi non è equivocabile quello che dico. Però dico, perché non si pone veramente una volta per sempre il problema della moviola, che oggi ad esempio avrebbe risolto in tempi minori rispetto a quelli che gli arbitri hanno perso per decidere sottoscrivo. Se era fuori gioco. Sottoscrivo, sì. Oggi ci hanno messo quasi un minuto, 40 secondi, minuto. Più ecco. Le proteste che sono seguite. Io credo che a Catania il gioco sia rimasto fermo per più di 2 minuti. Esatto. A quel punto tanto vale avvalersi dell'ausilio del mezzo tecnico. Questo perfetto. È un gol annullato per fuori gioco. Perché mai si dice la partita non può subire un'interruzione. E intanto è arrivato anche il primo parere di Braschi, che è il designatore, e che ha detto, credo all'ANSA: capisco il presidente Pulvirenti, mi dispiace, il guardalinee di Catania Juventus ha sbagliato. Ed è vero che è un dato oggettivo, però è comunque una missione importante, perché in passato anche di fronte ad errori evidenti, Alfredo, da parte dei vertici dell'AIA e da parte del designatore non c'era stata questa missione di errore. Alfredo, prego. Sì, l'ultima cosa telegraficamente, poi volevo fare due correzioni per due cose che sono state dette nella prima parte. Sì, prego. La prima, che ci sono stati errori arbitrali anche a Bologna e io ho visto la partita, ma nulla di che, non, a prescindere qualche punizione, ma nessun errore arbitrale rilevante. L'abbiamo fatta con il nostro Graziano Cesari, la moviola, in realtà è emerso un fallo di Palacio sul gol dell'1-0 di Ranocchia e probabilmente una posizione di fuorigioco di Cambiasso in occasione del 3-1, ma adesso non stiamo a rifare la moviola, però questo anche a sottolineare l'assoluta indipendenza di questa trasmissione, che, e rispondo a qualcuno che ha scritto al 349-238-6666, non è che parla di arbitri e di errori oggi perché l'errore c'è stato a favore della Juventus, lo fa quando gli errori ci sono e in passato ha anche sottolineato le cose belle e giuste fatte dagli arbitri. Prego Alfredo a chiudere. Sì, l'ultima cosa era questa, che durante la discussione degli arbitri a Catania si è consentito intanto a tutti i juventini di stare attorno, e questo non era giusto, ma addirittura anche a un giocatore della Juventus in casacca arancione che era in riscaldamento, era della panchina, quello non poteva essere entrato in campo. Sì, ma è tutta sbagliata la gestione di quell'episodio, non c'è solo dubbio questo. Alfredo. Poi ci vuole un po' più di tranquillità, senza essere presi dal tifo delle squadre, perché si sbaglia, l'Inter è stato avvantaggiato ad esempio col Milan, eccetera, succede questo, cerchiamo di trovare le soluzioni, così la finiamo pure di fare questi pianti grechi ogni non c'è dubbio. Ecco. Grazie Alfredo. Buonasera, buon lavoro. Intanto completo la frase di Stefano Braschi all'ANSA, ha detto ancora il designatore: lo sbaglio è dell'assistente Maggiani, uno solitamente bravo ed esperto, i primi ad essere dispiaciuti siamo noi. Castrise da Napoli, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Prego. Salve, senta, ho sentito Braschi che si scusava per quanto riguarda il fuorigioco della Juventus. Sì. Sì, soltanto che al Franchi 5 azioni della Lazio in fallo, 5 ammonizioni di Bergonzi. Un gol di Aic con fuorigioco sospetto di Jovetic. Un gol di Mauri annullato, rigore alla Lazio, ma noi questi 3 punti chi ce li dà? Ma non c'è dubbio Castrise, ma ne parlavamo anche con Serse Cosmi. È stata davvero una domenica bestiale questa. Le partite condizionate dagli errori arbitrali sono stati tanti. I 3 punti alla Lazio evidentemente in questa domenica non li ridà nessuno. Però è anche, secondo me, da affrontare il discorso che esattamente come oggi la Fiorentina è stata favorita dalle decisioni di Bergonzi e dei suoi assistenti, allo stesso modo domenica noi stavamo raccontando della rabbia della Fiorentina per il rigore negato a Verona contro il Chievo. Io non dico che poi gli episodi si compensano e soprattutto non voglio sostenere che a distanza di una settimana gli arbitri in qualche modo cerchino di riparare agli errori commessi. Dico che probabilmente tra qualche domenica staremo a parlare di una partita in cui la Lazio ha avuto qualche favore, in qualche modo è una ruota che gira. L'importante, e lo hanno sottolineato in tanti intervenendo oggi qui ad A Tempo di Sport, che giri senza che nessuno la controlli, e speriamo che questo non avvenga, anzi diciamo che ne siamo certi, anche se, come ha detto Serse Cosmi, il calcio italiano non ha ancora gli anticorpi per avere la certezza di non ricadere in quello che è stato Calciopoli. Claudio da Bari. Io volevo... Buonasera. Buonasera, prima di tutto. Avevo preparato, volevo dire tutt'altro. Però quello che ha detto Braschi non può dirlo ogni domenica, ogni volta che qualche arbitro sbaglia. Allora a questo punto sarebbe giusto rivedere il tutto. Nello schermo sbagliavano gli arbitri, hanno messo la moviola. Nella pallacanestro lo stesso. Ma quello che diceva il presidente del Catania è da leggere tra le righe, perché se qualcuno ha da dire qualcosa lo dica, ma lo dica subito, non facciamo ogni 2 o 3 anni che esce fuori qualcosa, ripuliamo, facciamo qualcosa per ripulire il calcio una volta per tutte, perché così si mettono tanti dubbi, i tifosi sono tanti e ragionano a modo loro, poi dobbiamo aspettare che succeda qualcosa. Va bene, grazie da Claudio. No, io spero che non succeda assolutamente niente di quello che ha detto Pulvirenti. Contestavo soltanto il passaggio successivo alla esistenza comunque di una certa sudditanza psicologica nei confronti delle grandi, quando c'era questo richiamo a qualcosa del passato. Ad oggi non esiste traccia e ci si augura che questa traccia che non si vede ci dia la speranza e la certezza che questo qualcosa non esiste. Intanto il Manchester in vantaggio 3-2 a Londra contro il Chelsea, partita davvero bellissima, gol di Hernandez. Alberto da Reggio Emilia, buonasera. Buonasera. Prego. Niente, io volevo intervenire riguardo al discorso della sudditanza degli arbitri nei confronti delle grandi. Io oggi ero allo stadio di Bologna, ma al di là degli errori del fallo di Palacio o di altre cose che possono esserci state nella partita, sono gli atteggiamenti, secondo me, che vengono tenuti in campo. Le faccio un esempio pratico. Prego. Oggi nell'Inter giocava un ex giocatore del Bologna che io ho molto apprezzato negli anni passati, Mudingay, notorio centrocampista con... sì, non di qualità. Ecco, non di qualità, ma che però sicuramente ha sempre retto in maniera molto forte il centrocampo del Bologna. Mudingay con la maglia rosso-blu penso che abbia collezionato una serie di cartellini gialli e anche rossi molte volte al primo intervento falloso. Anche oggi, prima di tirare fuori il cartellino giallo nei confronti di Mudingay, che oggi chiaramente ha giocato con la maglia dell'Inter, Mudingay si è cimentato in una serie di interventi da giallo da subito, che noi in curva a Bologna siamo rimasti stupiti, perché francamente negli anni scorsi Mudingay al secondo intervento aveva già il giallo e al terzo prendeva la strada degli spogliatoi. Questo oggi non è successo. Credo faccia parte del peso delle maglie, che da un certo punto di vista, Alberto, anche se non bello, è fisiologico finché rimane all'interno di un certo ambito, ma del resto questa è la vita, non succede soltanto nello sport, oltre assume dei contorni invece preoccupanti. Poi oggi Bologna-Inter in alcuni episodi chiave è stata arbitrata male, ne abbiamo parlato, e io credo che con questo l'argomento possa essere più o meno concluso. Grazie comunque per la sua telefonata. Buonasera Federica Brignone. Ciao Federica. Ciao, buonasera a tutti. Perché vogliamo parlare anche di sci, non soltanto di calcio, che oggi significa parlare soprattutto di arbitri. Io non so se a te piace il calcio, se sei appassionata, se lo segui. Oggi è stata, da questo punto di vista, una domenica bestiale. Ma ti dico, io sono in pulmino, quindi non ho potuto seguire niente. Comunque non guardo le partite di campionato. Meno male, perché oggi davvero non ti sei persa nulla dal punto di vista di quello che hanno combinato gli arbitri. Qual è invece il bilancio del primo weekend dello sci azzurro? Oggi c'era il gigante maschile, lo ha vinto Ligeti, siamo saliti sul podio con Mölg, che è arrivato secondo, sono andati male i nostri VIP come Blardone e Simoncelli, che sono caduti. Ieri c'era il gigante femminile, anche a te non è andata benissimo. Come lo facciamo il bilancio di questo primo weekend? Ma io direi che per l'Italia diciamo che è stato più o meno positivo, soprattutto per il risultato di Manfred oggi, che è stato diciamo il primo dei normali. Ligeti era su un altro pianeta e sono molto contenta per lui, perché è ritornato grande dopo una stagione difficile che è stata quella dell'anno scorso. Sì, su un altro pianeta anche il distacco, 2 secondi e 75 sì, esatto, centesimi quello, da Ligeti. Ha fatto quello. Un altro sport, Hirscher il terzo, addirittura 3 secondi e 12 centesimi. Oggi nevicava a Sölden, c'era poca visibilità, condizioni difficili, però diciamo che da questo punto di vista questo primo fine settimana si chiude in maniera positiva. A te ieri invece sì, non è andata bene, sei caduta nella seconda manche dopo essere stata ottava nella prima. Anche lì mi dà l'impressione questa stagione sia iniziata con una marziana, la Maze. Ma io direi che marziani non ce ne sono, nel senso che comunque è la prima gara di stagione, siamo ancora a ottobre, siamo ancora quasi 2 mesi dal grosso della stagione e di tutte le gare, quindi mettere in forma Sölden non significa poi fare una bella stagione, anzi, quindi mi spiace, perché comunque iniziare meglio è sempre bello, però comunque ancora tempo per prepararmi per tutta la stagione. Comunque è stata anche la prima gara con i nuovi materiali parliamo, perché i maschietti si lamentano, abbiamo parlato con Blardone, che si lamenta che le donne vanno più veloci con le nuove regole, i nuovi materiali. Assolutamente, loro fanno veramente fatica, soprattutto su condizioni di neve molle. Comunque anche ieri è stata una gara abbastanza difficile anche per noi, la visibilità nella seconda manche non c'era e quindi siamo state anche un'ora in partenza, hanno rinviato la gara. È stato un weekend difficile sia per gli spettatori che per noi, direi. Ma è vero che andate più veloci degli uomini? Ma dipende dalla neve, sicuramente è successo, sì, in neve morbida di aver fatto dei tempi migliori di loro, insomma. Questo risultato di Sölden, hai detto, non è indicativo di quali siano i rapporti di forza per tutta la stagione? No, comunque dà un'idea, però non è per forza quello. Ovvio che se tu fai un grosso risultato a metà della stagione, quando ci sono tutte le gare, significa che sei davvero in forma. Sölden è un po' particolare, poi chi comincia bene è da metà dell'opera, questo si sa. Certo, anche perché questa in realtà è una stagione che, al di là della Coppa del Mondo, vivrà poi il suo culmine nei mondiali di Schladming a febbraio, e quindi è difficile anche modulare la preparazione, esatto, lo stato di forma, esatto, e anche i test sui materiali. Lo sci oramai è diventato quasi come la Formula 1, uno sport in cui comunque c'è molta ricerca anche nel corso della stagione. Sì, assolutamente, noi abbiamo tantissimi materiali da testare e continueremo a testare fino ai mondiali per trovare il setting giusto, diciamo, per quella gara lì e comunque per tutta la stagione. Qual è l'obiettivo a Schladming? Beh, sicuramente l'obiettivo è sempre di vincere, quindi ci proverò. E l'obiettivo invece per lo sci azzurro in questa stagione? Tutti gli anni facciamo il conto con la crisi, con i budget che diminuiscono, con la sensazione di vedere andare via anno dopo anno i nostri migliori tecnici. Poi però alla fine, quando tiriamo il bilancio nel finale di stagione, vediamo che lo sci azzurro più o meno è sempre lì, tra i primi, fa la sua figura. Esatto, l'Italia l'anno scorso è arrivata, mi sembra, seconda come nazione, o secondo te, sì, sembra seconda come nazione, Quindi direi che lo sci italiano non è per niente scarso, anzi siamo tantissimi podi in una stagione e dispiace per appunto questo, per i problemi che la crisi che ha l'Italia ma anche lo sport italiano. Che condividete anche con altre discipline. Grazie Federica Brignone. Grazie mille. Grazie a Federica Brignone, gigantista in questo weekend, la prima gara sia maschile che femminile a Sölden. Noi seguiremo per tutta la stagione anche lo sci, così come seguiamo la pallacanestro. E allora noi adesso ci fermiamo per le informazioni sul traffico e quando torniamo in onda con noi Dario Ricci per gustarci l'antipasto di questa giornata di campionato. Intanto si parlerà di arbitri anche in Inghilterra, caro Dario Ricci, perché leggo il tabellino di Chelsea-Manchester United, gara che si sta per chiudere proprio in questi istanti. Il Manchester è avanti 3-2, il Chelsea la chiude in 9 contro 11 per le espulsioni dopo un'ora di gioco e tra l'altro in 5 minuti di Ivanovic e di Fernando Torres. Non so se nel basket, no, lo so, anche nel basket si parla molto di arbitri. Ma come, se sei tu che infiammi i parquet a destra e a manca, anzi siamo insieme, abbiamo intervistato Minucci, insomma sappiamo là la questione. Stiamo inseguendo arbitrale. Livio Proli, prima o poi lo raggiungiamo. Non è la storia come della tartaruga e... Va bene, intanto rapidamente i risultati del basket, perché si stanno giocando le partite della quinta giornata e c'è un risultato clamoroso a Milano, dove Reggio Emilia è avanti 36-19 dopo 15 minuti, avanti anche Sassari a Pesaro per 36-34, poi Avellino Bologna 32-29, Roma che conduce di un punto 30-29 contro la Juve Caserta, Montegranaro avanti 21-18 contro Cremona. Abbiamo un paio di amici che ci hanno raggiunto all'800240024. Cominciamo con Paolo da Forlì. Pronto? Paolo, buonasera. Ah, buonasera. Prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Niente, premetto di essere juventino e questi giorni... Non è una colpa. Eccolo, un vanto per me. No, niente, parlavo questi giorni con un collega, dicevo, riguardo l'Inter, che io considero l'avversario più pericoloso della Juventus quest'anno, dicevo, ma col Milan a rubar, tra virgolette, insomma, poteva anche vincere il Milan perché gli episodi a sfavore del Milan sono stati diversi. Poi poi è finita tutto così, più o meno a tarallucce e vino. Col Catania c'era il rigore netto per il Catania, poteva finire 1-1, ho detto non se ne parla proprio. Vittoria dell'Inter, però non con polemiche, niente. Ho detto, ma capiterà che poi la Juventus arriverà alla giornata? Ha visto che è stato accontentato, però lei se la prende con la trasmissione sbagliata, perché noi domenica scorsa abbiamo parlato e come dell'errore in Inter-Catania e oggi, se non ci ha ascoltato, si è perso una puntuale moviola di Graziano Cesari sui due episodi che in parte hanno condizionato anche la partita dell'Inter a Bologna, e poi c'è anche il derby con l'arbitraggio di Valeri, però mi interessa più capire perché per lei l'Inter è l'anti-Juventus di questo campionato. No, per me è più forte che forse anche della Juventus, anzi, penso, perché la Juventus, se non avesse la Coppa, magari, ma con la Coppa la vedo, spreca troppe energie, non ha la squadra per affrontare tutte e due le competizioni a lungo. La vede meno continua rispetto all'anno scorso. Come? La vede meno continua rispetto all'anno scorso. Grazie Paolo. Giacinto da Ravenna, buonasera. Sono qua. Prego. Buonasera. Niente, io volevo dire che ho sentito oggi l'intervista di Marotta e me lo ricordo alla Sampdoria, che era proprio un vero signore, parlava adesso... È tutta arroganza, quindi oggi mi sembrava Gatto Silvestro quando nei cartoni animati si arrampica sugli specchi, voglio dire, poteva anche non andarci, fare il silenzio stampa, che loro ci sono un po' abituati. Poi mi ricordo di una cosa, di un certo Lichtsteiner, che quando giocava nella Lazio faceva una partita sì, una no, una sì, una no. Per squalifica. Non viene mai espulso. Ha lo stesso problema di Mudingai, Giacinto, ne parlavamo prima con un amico esatto, da Bologna. Io quando andavo a Bologna negli anni 50, perché siccome... ne ho quasi 80, quindi, e andavo a vedere che c'era Lidium, Schiaffino, c'era Nordan, compagnia bella, e il calcio era ovviamente molto diverso, ma siccome non l'ho mai abbandonato il calcio, l'ho sempre seguito, oggi mi trovo che è inutile non pensare male, è così, è da sempre così, e quando uno come Pirlo, che è stato 10 anni nel Milan, ha detto 10 parole in 10 anni, come è andato alla Juventus, ha subito assorbito il clima e l'arroganza di quella. No, ma io non credo, Giacinto, che sia un problema di Juventus, mentre è assolutamente fisiologico, Dario Ricci, che la sudditanza nello sport non solo esista. Io non credo, ad esempio, che la casacca di Reggio Emilia pesi come quella di Milano su un parquet, come quella di Siena, come quella di Bologna o Varese, quando Bologna e Varese hanno dominato questo sport. Assolutamente sì, oppure come quella di delle compagini greche o spagnole quando si va in Europa, no? Si sa che quel fischietto fa un po' più fatica a funzionare, fa un po' più fatica a lavorare, e non a caso poi il risultato ultimo è la necessità di una vigilanza massima, no? Nel mondo del basket stiamo chiedendo chiarezza, trasparenza, e ancora di più lo chiediamo nel calcio. Chiaro che questa benzina gettata sulla settimana che porta a Juventus-Inter... Sì, sicuramente darà da scrivere e da parlare, ma del resto ce ne siamo accorti anche questo pomeriggio. Francesco da Verona, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Buonasera a tutti voi. Niente, io volevo intervenire sugli episodi appunto di sì. Catania-Juventus che tutti voi state parlando, anche perché io devo dire la verità, non faccio nomi, ma uno degli arbitri, diciamo dei sei arbitri, è un amico, sì. E quindi posso dire assolutamente della sua professionalità e della sua competenza. Ci dica pure il nome a sto punto. No, uno dei sei, diciamo. Francesco, ma io glieli faccio, Francesco, io glieli faccio tutti e sei i nomi, perché quando si arriva ad arbitrare o a fare gli assistenti in Serie A si è professionisti. Era l'arbitro Musolino che era fuori, insomma, certo. Era lui colui che conteneva le panchine. Il quarto uomo. Quindi quello ci può dire se l'ha annullato la panchina quel gol. Al di là di questo, io vedo che questi episodi che capitano sono sempre riferiti a partite della Juventus. Secondo me gli arbitri scendono con tutte le buone intenzioni, però quando incontrano questa squadra, anche un po' per la pressione della società, appunto come sentivo per l'arroganza, così come perché Marotta, per esempio, quando era nella Sampdoria, era appunto una persona molto affabile, ma si pone anche lui come tutta la dirigenza juventina. Io sono di posa la Sì, ma è anche il problema, mi perdoni Francesco, non è che Allegri non ha cambiato atteggiamento tra quando era allenatore del Sassuolo o del Cagliari e ad esempio nella stagione in cui il Milan ha vinto lo scudetto. Evidentemente poi c'è anche un ruolo. Noi speriamo, e lo abbiamo detto, che Andrea Agnelli, che si sta candidando ad avere un ruolo così centrale nel calcio italiano in questa settimana, che porta a Juventus-Inter, faccia un gesto importante e simbolico, come dire che a Catania non è andato tutto per il verso giusto. Probabilmente non lo farà, ma come diceva anche Serse Cosmi, non cambia nulla, sarebbe semplicemente un modo per provare a distendere l'ambiente in una settimana che sarà già particolarmente carica di polemiche e di veleni. Ma non è soltanto, la prego, una questione di Juventus, così come i cori razzisti non sono soltanto un problema della tifoseria del Verona. Grazie Francesco, andiamo Dario, ne abbiamo un paio di minuti sulla pallacanestro. Intanto io ti do ancora l'aggiornamento: 17esimo, Milano è sotto 21-38 in casa contro Reggio Emilia, 39-36 per Pesaro su Sassari, 39-30 Avellino su Bologna, 34-32 Roma su Caserta, e poi Cremona che sta vincendo di 2, 26-24 a Montegranaro. Domani Varese contro Cantù, che credo sia la partita più interessante e bella della giornata, e poi Biella contro Siena. Ho l'impressione che il basket italiano stia facendo fatica a trovare continuità anche in Europa, e poi vediamo anche questi risultati in campionato. Assolutamente, in Europa, diciamo, limitandoci all'Europa League, all'Eurolega, siamo a una percentuale del 33% di vittorie su 9 gare finora disputate. Quindi ben poca cosa, ma quella di Milano soprattutto, se finirà così, è vera e propria crisi. Stasera la apriamo a palla spicchi e ne ragioniamo con i nostri amici. A partire dalle 20:30. Infatti, perché non è possibile che quel roster possa esprimere questi risultati. E ti dirò, ne ragionavamo insieme qualche settimana fa, l'indizio più preoccupante è stata la sfida con i Boston Celtics, perché non si vanno a prendere quei 30 punti, pure in quella gara con quella rendevolezza, no? è stata una spia accesa sul quadrante e stanno arrivando questi risultati. Sì, io ho letto da qualche parte addirittura qualche dubbio sulla prosecuzione di Scariolo sulla panchina di Milano. Ti chiedo conferme, non so se in ogni caso cambiare l'allenatore possa essere la ricetta giusta. Siamo soltanto ad ottobre, il basket è davvero all'alba della stagione, però è evidente che a Milano serve un po' più di continuità. C'è un Obradovic che non ha panchina, e quindi però ci vogliono tanti soldi, e poi insomma il progetto Scariolo è un progetto pluriennale, però con questi risultati tutti vanno in discussione, perché questa è la squadra di Scariolo, eh? Non dimentichiamolo, prima scelta l'anno scorso è stato Cook, il regista tanto discusso, quindi questo è il roster che ha costruito e quindi Scariolo. È il roster che Scariolo deve portare a fare risultati. 20:30, palla spicchi per parlare della quinta giornata del campionato di basket. Io ringrazio Giorgio De Luca, in redazione Fabio Cantadori e Roberto Scaltriti, che si sono alternati in regia. Un saluto anche da Giovanni Capuano. Vi ricordo che rimane aperta per tutta la settimana la nostra bacheca su Facebook a tempo di sport /radio24 per parlare di tutto quello che accade nel mondo del calcio, nel mondo dello sport in generale, per confrontarsi. E poi il calcio torna domani dalle 14 con Carlo Genta, con tutti i convocati.